Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. The category is Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il mondo delle idee, la cultura, allargando lo sguardo a tutti gli animali, umani e no. È la puntata numero 588 e parleremo di Amazzonia, di nuove o pseudo-nuove forme di economia, di divi hollywoodiani e di zoo. La colonna sonora e la ricetta della settimana saranno a cura del nostro Gabriele Palloni. La notizia, a nostro avviso, più importante della settimana è stata a malapena riportata dai canali di informazione più diffusi. Nasce da uno studio della rivista Nature Climate Change riguardante l'Amazzonia. Il cosiddetto polmone del mondo, 5,5 milioni di chilometri quadrati di estensione, non riesce più a respirare. O meglio, invece che depurare l'aria, assorbendo anidride carbonica e liberando ossigeno, l'Amazzonia ha cominciato a rilasciare più gas di quanti riesce ad assorbirne. Un vero disastro che cambia la nostra stessa percezione di quest'area del pianeta. Secondo i dati di Nature Climate Change, dal 2010 al 2019 il bacino amazzonico ha prodotto 16,6 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, assorbendone solo 13,9 miliardi. Le cause di questa inversione del contributo netto al respiro del pianeta sono da ricercare negli incendi e nella deforestazione. Fra incendi e abbattimenti di alberi, le porzioni di foresta distrutte sono quasi quadruplicate fra 2017 e 2019, da 1 milione di ettari a 3,9 milioni. E fra 2019 e 2020, secondo un altro studio di Global Forest Watch, la deforestazione è aumentata del 25%. Le conseguenze di questa bancarotta ecologica sono al momento difficilmente calcolabili. Di certo possiamo dire che se ecosistemi terrestri come l'Amazzonia contribuiscono ad inquinare l'aria invece che aiutare a ripulirla, la lotta contro le emissioni inquinanti è destinata a fallire. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. Mentre l'Amazzonia, anziché parte della soluzione, diventa parte del problema, si continua a parlare moltissimo di ambiente, di ecologia, di sostenibilità. Nei giorni scorsi, per esempio, l'Italia ha presentato a Bruxelles il cosiddetto piano di ripresa e resilienza, in teoria un ponte verso un futuro diverso, più verde, di quello che ci ha portato nel baratro della pandemia. In realtà, come sta emergendo via via che i vari progetti sono messi a fuoco, si tratta di un insieme di interventi vecchio stampo, dentro la logica della crescita e di un modello di sviluppo del tutto simile a quello degli ultimi decenni. La verniciata di verde, chiamata solitamente transizione ecologica, sembra una patina molto leggera, che gli stessi autori del piano ormai non enfatizzano più di tanto. Il lessico corrente, in ogni caso, è pieno di termini e nozioni nuove e accattivanti. Francesco Panier, giornalista e attivista esperto di questioni ambientali, continua per noi il suo viaggio nel lessico dell'antropocene. Stavolta ci parla di economia circolare. I rifiuti sono un'invenzione umana. In natura, infatti, non esisterebbero. Ogni scarto generato da un elemento dell'ecosistema rappresenta una risorsa per altri, in una collaborazione fra regno animale, vegetale e minerale, vecchia come il mondo. È a questa sostenibilità intrinseca che guardano le teorie sull'economia circolare, sviluppatesi a partire dagli anni 70 e oggi sulla bocca di ogni decisore politico. Siamo tutti consapevoli dei danni prodotti dalla cosiddetta economia lineare, basata sul ciclo aperto, produzione, consumo, smaltimento. I paesi industrializzati, cresciuti grazie proprio a questo modello estrattivo, oggi fanno mea culpa e promettono la transizione verso un'economia circolare, dove ogni bene materiale dovrà essere pensato per essere, una volta giunto a fine vita, smontato e riciclato. Una bibita in lattina potrebbe fornire alluminio per l'intelaiatura di una finestra, mentre una forchetta di plastica potrebbe finire in una scarpa. Le combinazioni sono molte, ma occorre andare un po' più a fondo. Per esempio, ponendosi qualche domanda, quanto ricicliamo davvero oggi? Perché donare una seconda vita a una forchetta di plastica quando potremmo evitare di produrla? E come conciliare un'economia in crescita con l'imperativo della circolarità? Le risposte non ci piaceranno. Oggi nel mondo ricicliamo appena il 15% della plastica, il 25% finisce negli inceneritori generando inquinamento e il 60% in discarica, dove una bottiglia impiega 450 anni a decomporsi. Inoltre, la plastica si ricicla un numero limitato di volte, più o meno la stessa percentuale di riciclo, 17%, caratterizza i rifiuti elettronici, come i nostri smartphone, tablet, computer, televisori, forni a microonde. I paesi sono alla costante ricerca della crescita economica che consiste nell'estrarre sempre nuove materie prime per produrre un numero crescente di beni di consumo. La circolarità, pertanto, in un'economia della crescita è destinata a rimanere un'utopia. Infine, nessun processo sarà mai davvero circolare perché il riciclo di materia prevede esso stesso l'impiego di energia, che deve essere ricavata da fonti esterne. Ecco perché l'economia circolare è destinata a rimanere un mito, nonostante la forte retorica alimentata anche dagli ambientalisti. L'unica possibilità per far rientrare le attività umane dentro i limiti della biosfera è ridurre, invece di aumentare, la produzione di beni e servizi inutili o dannosi e sperimentare al contempo stili di vita meno dissipativi. Conviene farlo subito o saremo costretti a farlo dal nostro pianeta fra non molto tempo. When I saw your face. Una delle piaghe che ancora affliggono le nostre società è quella degli zoo, luoghi di prigionia e di esibizione di animali di origine selvatica, luoghi di tortura. Ascoltiamo il contributo di Francesco Cortonesi, attivista, animatore della rete Zoo Out, che potete trovare sui social network con tutte le notizie delle sue attività. Qualche breve considerazione sulle giraffe morte nell'incendio divampato nello zoo della Virginia. Le due giraffe morte nei giorni scorsi sono soltanto due delle tante vittime che sono decedute da inizio anno negli zoo di tutto il mondo. Alcuni giorni fa un ghepardo dello zoo di Jacksonville è morto in seguito a un errore di valutazione da parte del personale che lo ha rinchiuso in una gabbia con un altro ghepardo. Qualche giorno prima era toccato a una tigre dello zoo di Pata in India, morta poche ore dopo essere stata catturata. Il 17 febbraio due cuccioli di tigre bianca sono invece deceduti allo zoo di Lahore in Pakistan per un virus, forse il coronavirus, portato all'interno della struttura da un addetto alle pulizie. La lista potrebbe continuare a lungo. Gli zoo sono sempre più spesso gestiti da personale non specializzato e gli errori si moltiplicano. Recentemente un'indagine pubblicata nel New York Times ha messo in luce come in America questo problema stia diventando sempre più evidente, ma ovviamente la questione è globale. Gli animali vengono continuamente privati della libertà o costretti a riproduzione forzata nel tentativo di aumentare i profitti che vengono spesso travestiti con la parola conservazione. Attualmente il numero di animali detenuto negli zoo di tutto il mondo supera il milione. Nonostante questo, delle oltre 6.000 specie in via d'estinzione, solo 16 nell'ultimo secolo sono state reintrodotte in natura. Questo dimostra, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che la tanto sbandierata missione degli zoo di preservare le specie è attualmente un completo fallimento. Per restare informati sulla realtà degli zoo di tutto il mondo, potete visitare la pagina Facebook di Zoo Out, una piccola organizzazione italiana che si batte per la liberazione degli animali. Un anno fa, durante la notte degli Oscar, nel febbraio 2020, Joaquin Phoenix stupì il mondo con un discorso sugli animali e contro lo specismo, un discorso che ad alcuni parve addirittura fuori luogo. Phoenix aveva appena ottenuto la prestigiosa statuetta come miglior attore protagonista per il film Joker e colse l'occasione per esporre la sua visione del mondo e delle relazioni fra esseri viventi. Il giorno dopo l'attore partecipò al salvataggio di una mucca e del suo agnellino da parte di un'organizzazione animalista. Questo episodio ora è al centro di un cortometraggio diretto da Sean Monson, il regista di Earthlings e noto attivista per gli animali. Un cortometraggio che è stato reso pubblico dal Los Angeles Animal Save un anno dopo, in occasione, il 22 aprile, della Giornata Mondiale della Terra. Phoenix, nella notte degli Oscar, pronunciò un discorso molto accorato. Disse, fra l'altro, «Penso che ci siamo disconnessi dal mondo naturale. Molti di noi sono figli di una visione egocentrica del mondo. Per questo crediamo di essere il centro dell'universo. Andiamo nella natura e deprediamo le sue risorse. Ci sentiamo autorizzati a inseminare artificialmente una mucca e a rubare il suo piccolo non appena lo dà alla luce, nonostante i suoi inequivocabili pianti di disperazione. Poi prendiamo il suo latte che sarebbe destinato al cucciolo e lo mettiamo nel caffè o nei cereali. Credo che abbiamo paura dell'idea del cambiamento personale perché pensiamo di dover sacrificare qualcosa o rinunciare a qualcosa. Ma gli esseri umani, al loro meglio, sono creativi e ingegnosi. Quando usiamo l'amore e la compassione come principi guida, possiamo creare, sviluppare e implementare sistemi di cambiamento che fanno bene a tutti gli esseri senzienti e all'ambiente. Il documentario, che si intitola Indigo, dura 14 minuti ed è rintracciabile in rete. Joaquin Phoenix è al momento uno dei testimonial più prestigiosi di una visione antispecista del mondo. Il suo attivismo non si limita alla partecipazione al documentario Indigo. In questi giorni viene diffuso anche un altro documentario di cui Phoenix è produttore. Si tratta di Gunda, realizzato da Viktor Kosakowski e arriverà in Italia il 13 maggio. Gunda è descritto come un film intenso i cui protagonisti sono gli animali. Prima fra tutti una scrofa di nome Gunda. Attraverso il punto di vista di un maiale o il muggito di una mucca, il film racconta come l'uomo non sia l'unica specie in grado di provare emozioni, di avere coscienza o volontà. Phoenix sembra entusiasta di questo progetto. Gunda, dice, offre una sconvolgente prospettiva sulla sensibilità delle specie animali, che normalmente, magari di proposito, ci viene tenuta nascosta. Dimostrazione di orgoglio e riverenza, di divertimento e felicità da parte di una giovane curiosa scrofa, il suo panico, la sua disperazione e la sua totale sconfitta davanti a inganni crudeli sono prove valide di quanto similmente tutte le specie reagiscono agli eventi nelle nostre rispettive vite. Viktor Kosakowski ha realizzato una meditazione viscerale sull'esistenza, dice Phoenix, in grado di trascendere le normali barriere che separano le specie. È un film di profonda importanza, un'opera d'arte. Invitiamo quindi tutti a vedere Gunda. From the dusty mesa, a looming shadow. Fingers ran with blood. questo punto possiamo dire inevitabilmente a Joachim Phoenix è dedicata la ricetta della settimana, a cura del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo quale ricetta è uscita dal suo cilindro. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Joachim Phoenix, attore e attivista al quale dedichiamo la ricetta di oggi, è il terzo di 5 figli. Il compianto River, Rain, Liberty e Summer. Non tutti sanno che, poiché Joachim è l'unico dei 5 a non aver ricevuto un nome ispirato alla natura, a 4 anni decise di farsi chiamare Leaf, in italiano foglia. E con questo nome debuttò giovanissimo anche come attore. Ispirato da questa curiosità, dedico dall'attore premio Oscar una ricetta della cucina povera del Cilento, ovvero le foglie e patate alla cilentana. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di cime di rapa o di cicoria, 2 patate, uno spicchio di aglio, olio extravergine di oliva, un peperoncino e del sale. Sbucciate le patate e tagliatele a tocchetti non troppo piccoli, quindi fatele scottare in acqua leggermente salata fino a quando saranno abbastanza morbide ma non troppo cotte. A parte pulite le cime di rapa o la cicoria, oppure un misto di entrambe. Scottate per pochi minuti in acqua leggermente salata e scolate. In una padella fate soffriggere l'aglio in camicia assieme a 2 cucchiai di olio extravergine ed al peperoncino. Unite le patate, scottate e dopo pochi minuti le verdure. Durante la cottura schiacciate le patate con un mestolo o una forchetta in modo da amalgamarle alle cime di rapa o cicoria come una crema. Fate cuocere mescolando per una decina di minuti e servite. Chiudiamo con una curiosità gastronomica. Dal 10 giugno prossimo, alla riapertura dopo un periodo di lockdown, il ristorante 11 Madison Park di New York, uno dei più rinomati nella Grande Mela, 3 stelle Michelin, non includerà nel suo menù alcun piatto a base di carne, pesce o derivati animali. Lo ha annunciato lo chef svizzero, proprietario del locale, Daniel Hume, spiegando la scelta con queste parole. In quest'ultimo anno, ha detto, il mondo è cambiato e lo abbiamo fatto anche noi. È ora di ridefinire il lusso come esperienza rivolta a uno scopo più alto e in modo che mantenga una connessione autentica con la comunità. Siamo entusiasti delle incredibili possibilità della cucina a base vegetale e dell'opportunità di radicare un legame con le nostre case, con le nostre città, con il nostro pianeta.